La magistratura italiana, l'ordine da cui più di tutti dipende, a giudizio dei più, il nostro futuro democratico, non si lascia certo crescere l'erba sotto ai piedi. Una volta preclusa gli dalle omerie presidenziali e dai voti del Parlamento la pratica prediletta di far tintinnare le manette di fronte ai supposti rei, a meno naturalmente che siano disabili mentali accusati di furto di caramelle al supermarket, nel qual caso le manette non le fanno nemmeno tintinnare, ma gliele mettono subito e buttano via la chiave, e il Presidente non sta certo a preoccuparsene, nel Parlamento s'arrovella con casi di coscienza. Una volta orbata dunque da questa prediletta tecnica d'indagine, ha già inventato un nuovo raffinato strumento di civiltà giuridica: l'arresto e l'incriminazione dei testimoni. In una sola settimana ne abbiamo già avuto due casi perspicui. Quello di certo Hashi Omar Hassan, di nazionalità somala, giunto in Italia per testimoniare su eventuali turpitudini compiute dalle nostre forze di pace nel suo paese e che si è trovato inopinatamente in galera come sospetto d'omicidio. E quello, un po' meno pubblicizzato dalla stampa ma sempre interessante, di tale Marco Ronchi, 77 anni, di Bascapè, provincia di Pavia, professione agricoltore, che 35 anni fa riferì, sembra confusamente, su quanto gli risultava a proposito del disastro aereo in cui aveva perso la vita, tra gli altri, Enrico Mattei, ed è stato adesso rinviato a giudizio per favoreggiamento in omicidio plurimo. Per citare la Bibbia, i mulini del Signore, come quelli della giustizia italiana, macinano lentamente, ma macinano fino. Non c'è dubbio, Non c'è dubbio che entrambi i provvedimenti gioveranno quant'altro e mai alla causa della giustizia. La sorte di Hashi Omar Hassan, che deve essere un somalo absetenioria piuttosto stupidino, se è venuto a farsi arrestare da un paese in cui arrestarlo proprio non si poteva, gioverà moltissimo a chi cerca la verità sul comportamento dei nostri soldati in Somalia. Vittime e testimoni somali, dopo quanto gli è successo, faranno a gara per presentarsi a testimoniare davanti all'apposita commissione d'inchiesta. In effetti quelli che avevano già deciso di testimoniare hanno già cambiato idea e non gli si può dare del tutto torto. Quanto a Mario Ronchi, che dapprima aveva dichiarato di aver visto l'aereo di Mattei esplodere in volo, e poi a quanto sembra di capire, dopo vari colloqui con tecnici dell'ENI e altri misteriosi personaggi, cambiò idea e disse che il velivolo si era schiantato a terra, è ovvio che la sua testimonianza era assolutamente fondamentale. Nessuno è più adatto a illuminare gli inquirenti sulle circostanze di un disastro aereo e di un agricoltore che ha visto cadere l'aereo da lontano e che non sa dar ragione a soli 35 anni di distanza delle dichiarazioni rese all'epoca. L'unico problema importante, chi fossero i tecnici ENI e i misteriosi personaggi che lo avrebbero persuaso a cambiare idea, non lo si sa. Ma il magistrato è sicuro che se Ronchi allora avesse confermato di aver visto esplodere l'aereo in aria, i suoi colleghi d'allora, i colleghi del magistrato, non di Ronchi, non avrebbero sposato, come hanno fatto in effetti, la tesi dell'incidente. Se chi ha fatto precipitare il velivolo di Mattei non è stato scoperto, la colpa è tutta sua, di Mario Ronchi. In pratica l'unico colpevole è lui, infatti è l'unico che in 35 anni si è finito sotto processo. In effetti, a un osservatore appena un poco sospettoso, quello di accusare i testimoni di essere responsabili di qualcosa d'altro, come nel caso di Hashi Omar Hassan, o di aver impedito con la loro reticenza ad altri magistrati di raggiungere la verità, come nel caso di Mario Ronchi, può sembrare un metodo splendido per chiudere i casi delicati. Non aiuta ad acquisire testimonianze nuove, certo, ma in fondo in casi come quello somalo le testimonianze, oltre che ambigue e non molto credibili, sono più imbarazzanti che altro, e meno ce ne sono meglio è. E nel caso dell'anziano agricoltore di Bascapè, mandarlo sotto processo non aiuterà a scoprire chi aveva interesse a depistare le indagini sulla morte di Mattei, del suo pilota e del giornalista che gli accompagnava. Anche perché 35 anni dopo, da un punto di vista strettamente non giuridico ma storico, chi aveva interessi in merito lo sappiamo abbastanza bene. Ma per i magistrati nel suo complesso, incriminarlo resta un buon mezzo per autoassolversi. L'affermazione per cui la colpa è sempre di qualcun altro è da sempre una mossa giuridica basilare. L'ha utilizzata anche il procuratore di Napoli, che si è affrettato a rispondere ai giornalisti che quell'handicappato là, quello del furto delle caramelle, non l'aveva mica fatto arrestare lui. Un giorno o l'altro la troveremo incisa tra le altre massime sulla facciata di tutti i palazzi di giustizia.